nell'aria della sera la luna è sorta sul davanzale, nella cornice di una finestra spalancata davanti al greco mare. Salgono dal porto le voci smorzate dei marinai che imprecano contro il dio degli abissi, Poseidon. Tu intanto sbrighi i tuoi prosaici rituali, imbandisci in fretta una tavola essenziale, mangi sgombri, ti risiedi e aspetti che ti prenda il sonno per finire dentro ad un altro sogno, dove come in uno specchio si riflette l'universo e l'altro che ripete ogni tuo gesto. Oh, è il fiume che tu ignori, dove un tempo siamo scesi e in cui hai intravisto la tua follia. Senza vento alzi gli occhi al cielo per rivedere le stelle. Nel quadro inintellegibile del firmamento cosa siamo? Appena un punto al centro di una congettura, mentre tutto scorre rimani immobile e non sei più lo stesso. Quell'uomo che tu eri non esiste più. Nel fiume fatto di tempo e di acqua noi scendiamo e non scendiamo, e rapido è il suo fluire. In questa sera, nell'ora in cui tutto tace, che